Dunque, allora, oggi ancora una volta affronteremo il tema centrale, no? Che è quello della struttura di potere. Se hai vissuto in una famiglia in cui lo stile di relazione era basato sul potere e sull'autoritarismo, devi fare questo perché te lo dico io per il tuo bene. Se lo fai, io ti amo, se non lo fai, è chiaro che ti devo rimproverare e, in un certo senso, ti faccio mancare l'amore. Non ti viene, anzi, ti viene detto: io ti rimprovero perché ti amo. Questa è la struttura autoritaria, è un imbroglio, nel senso che non è vero che la persona dice così lo fa per il tuo bene, lo fa per il suo, per sentirsi a posto lui. Quindi il bambino lo sente, non è qualcosa che non è autorevole, è autoritario, cioè è una prevaricazione. Il bambino sente questa prevaricazione e inizia a sviluppare la controdipendenza. Questa controdipendenza c'è comunque, sia che adempia le cose, sia che non le adempia. Se adempia le cose, lo fa comunque avendo una parte interna che si arrabbia, che può andare nell'ombra, oppure comunque c'è una parte interna rabbiosa. Se invece non adempie, cosa fa? Che si sente in colpa. Quindi, ecco la cosa importante. Di fronte a una richiesta, quando questa richiesta viene filtrata dalla struttura di potere interiorizzato, la richiesta diventa un ordine. Un ordine a cui si possono dare due risposte: si obbedisce sottomettendosi o ci si ribella. Se ci si sottomette, cosa succede? Che all'interno si attiva una parte rabbiosa. Se invece si obbedisce, se invece ci si ribella, si attiva una parte che si sente in colpa. Allora, le strutture più depressive fanno avvertire di più il senso di colpa. Le strutture più narcisistiche fanno sentire più la ribellione. Quindi il ribelle, colui che ha questa struttura, che si identifica più nella ribellione, manda al diavolo l'altro. Chi è più una struttura depressiva, ingoia per un po'. Poi a un certo punto, comunque, la struttura depressiva utilizza gli equivalenti aggressivi, che sono modi di punire l'altro. Quindi è un ribelle nascosto, lo fa in modo nascosto. Quindi stirami la camicia in questo modo, non diventa una richiesta che uno può dire guarda sì, guarda no, oppure fallo fare da un altro, diventa un ordine. La persona che riceve questo ordine ha due possibilità: lo adempie, ma si arrabbia e lo fa pagare. Non lo adempie, si sente in colpa. Sentendosi in colpa, però si arrabbia lo stesso e la fa pagare ugualmente. Quindi ogni richiesta attiva nella persona che la riceve, essendo diventando un ordine, si trasforma in una fonte di rabbia. Che genera che cosa? Genera degli equivalenti aggressivi. Okay? Questi equivalenti aggressivi arrivano all'altro e a seconda del tipo di relazione sono più o meno diretti. Comunque, quanto più la persona ha una struttura depressiva, tanto più questi equivalenti aggressivi saranno indiretti e meno facilmente collegabili alla causa. Quindi, persona, per esempio, può sentirsi male quando l'altro gli piacerebbe fare una gita, quello si sente male. In realtà è l'inconscio che lo fa sentire male, starebbe benissimo perché così tanto comunque gli fa del male, lo punisce e così via. Allora, questa è La struttura. A la struttura di cui ci stiamo occupando, no? Ok. me, per esempio, mi funziona, Sì. però con la mia specificità che non è per me un ordine, ma una costrizione. Per esempio, adesso Raul mi diceva che ha queste 2 settimane libere, allora voleva venire a lavorare qua. Io mi sento, perché come dire, ma non posso mica risolvere i problemi di tutti, cioè mi faccio tutto da sola, perché Sì. lui, poverino, me lo deve dire che è libero, sennò come faccio a sognarmelo? Però nel momento che me l'ha detto, io ho una lotta, dico, vabbè, ma cazzo, cioè io devo anche un attimino, cioè vedere le cose mie, Sì, e cioè. dentro si attiva, quindi allora, Sì. nel tuo caso si attiva senso di costrizione, poi non so te qual è, ho detto Qual è ordine, la ma specificità sì, ma di delle volte ognuno? anche la La costrizione, costrizione, sì, oltre la costrizione, ok. che la ribellione o la rabbia, oppure uno dice mi dimentico, mi No, no, no, accorgo. no, no, ma il punto è prima, cioè poi quelle lì sono le Ah, prima. conseguenze. È quando la richiesta si È trasforma in qualche altra opprimente, delle cosa. volte è È, opprimente, allora, sì. per te è un'oppressione, perché quello è il passaggio. È lì, poi tutto il resto è la Sì, conseguenza, è sì, sì, logico, sì. no? È logico. Allora. Per me la richiesta si traduce in costrizione. Mi sento costretta, mi sento oppressa. Per te è in oppressione. Cioè, Anche tu hai detto costretto, oppresso. no, per me è proprio Costrizione vuol costrizione, dire. per me è un po' diverso, è proprio costrizione. Gianni stava sopra la gabbia, davanti. No, davanti alla porta. Vabbè, ti chiudeva la via. Sì. Vabbè, vabbè, comunque, perché per me non mi scatta finché c'è la parola ordine, non capisco di cosa stai parlando. Okay. Quando me la traduco in costrizione, allora so. Benissimo. E delle volte proprio che una persona appunto dice mi fai sto favore, insomma, oppure ti faccio sapere, vedi cosa ci puoi fare tu. Sì, insomma. Anche a me più che ordine, sono costretta a farlo, non posso farne a meno. Perché in quel caso lì, per esempio, qual è la differenza? Non è un... È che la persona non è che si mette in posizione di superiorità, nel caso mio per esempio Raul, non è che si mette in posizione di superiorità, però io la vivo, che io devo essere buona, devo occuparmi di tutti. Infatti la frase che mi viene fuori poi è del tipo, ma cazzo, ma non posso mica risolvere i problemi di tutto il mondo, perché il sottinteso è io devo risolvere i problemi di tutto il mondo. Perché sì. Se no non vado bene. Perché se no non sono abbastanza buona, non vado bene, non sono abbastanza... Sì, sì. Allora, tutto questo, capite com'è? Quindi viene vissuto come costrizione o pressione. Questa costrizione o pressione viene vissuta come esterna. Eh sì, come se fosse che viene dall'altro, okay? Invece bene. È il filtro proprio. Come venisse dall'altro, sì, sì, sì. È questo che si attiva l'ombra. Eh sì, quello che ti dicevo prima, non me lo doveva chiedere. Esatto. Qui, mentre viene dall'ombra. Dalla propria... Ecco questo concetto di ombra. Ombra. Cioè la costrizione viene dall'ombra. Certo, perché è questa struttura che è nell'ombra e la richiesta è quella esterna. Questa è la cosa esterna, ok? Questa è quella interna. Invece con la traduzione lì, richiesta uguale costrizione interno, o pressione, quello che è, e lì, pum. Ecco, ora credo. E quello lì è il passaggio nell'ombra. Ripeto dunque, riparto da qua. Mi stiri queste camicie... viene filtrata attraverso questo schema inconscio. Questo schema inconscio traduce la richiesta in una costrizione o pressione, come se l'altro ti dicesse tu devi assolutamente stirarmi queste camicie, altrimenti tu non vali niente, io non ti amerò mai più, non ti voglio più vedere. Ecco, quindi c'è un ricatto dietro, no? C'è una proprio una costrizione. Quindi tu a un certo punto, siccome sta toccando un tasto chiave, che è quello sì, è un ricatto, perché come se dicesse se non mi stiri le camicie non sei cattiva, ecco. E quindi se sei cattiva non ti amo più. Sì. Se non non lo fai sei cattiva. E quindi meriti di essere punita, quindi non ti... punizioni varie, no? Allora cosa fai la persona? Questa oppressione che viene vissuta così come esterna genera dentro il desiderio di compensazione, compensare, quindi andare in pari. Se l'altro mi fa del male, cosa faccio io? Faccio del male. Come? Con equivalente aggressivo. Perché equivalente, non aggressività diretta? Perché l'aggressività diretta mi esporrebbe alla punizione. Io mi ribello direttamente e l'altro mi punisce. Io lo faccio indirettamente in modo che non sia chiaro. Quindi per esempio il malumore, tutte quelle cose che sapete, tutti gli inquinanti della mente possono essere utilizzati come equivalenti aggressivi. Ok? Quindi, ripetendo, in questo modo la persona non è libera, la costrizione è interna. Ok? Al punto che addirittura quando l'io chiede qualcosa alla persona stessa, dice adesso faccio questo, adesso vado a fare meditazione, va bene, lo scelgo io, leggo un libro, non me lo dice nessuno, leggo un libro, adesso mi metto a fare meditazione. Dopo un pochino le parti interne vivono questo come un'eredizione oppressiva, cioè l'io divento un oppressore. Ecco. E quindi la parte ribelle si ribella. E se si ribella, poi c'è il senso di colpa. Se invece esegue, la cosa viene eseguita, c'è la rabbia, ecco. E poi quello stesso meccanismo un attua anche contro di sé, cioè voglio dire, se sono arrabbiato con me stesso, attivo quelle parti arrabbiate, attiva degli equivalenti aggressivi contro me, mi fa star male, me ne fa combinare qualcuna, a me, non all'altro. Ecco. Quindi dobbiamo capire che noi siamo come delle matriosche, o degli ologrammi, la stessa struttura funziona nel nostro rapporto tra io e le parti interne, tra noi e i nostri partner, persone esterne e così via. Ecco, come si esce da questo? Togliendo la causa, che di solito non vediamo. La causa è la struttura di potere che abbiamo interiorizzato, il filtro attraverso cui leggiamo il mondo reale, sia quello che produciamo noi, sia quello che ci viene dall'esterno. E questo filtro, finché non viene smantellato, non ce n'è da fare, perché è un magnete che deforma tutte le percezioni. Ecco, quindi noi viviamo in un mondo che la persona sente oppressivo, ecco, quindi oppressivo o costrittivo. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna sciogliere questa struttura oppressiva. Come si fa a scioglierla? Vedendola con chiarezza. Adesso stiamo facendo in modo che tu la possa vedere, diciamo così, more geometrico. Poi bisogna però vederla passo a passo nella propria vita. Tu, grazie a questo sogno didattico, tu hai visto che quando tu dici adesso vado a fare meditazione, siccome ti era stato detto si fa così, così, così, non l'hai presa come una possibilità, ma l'hai presa come una costrizione. E quindi si è attivata questa ribellione, c'è poco da fare, non puoi adempiere a questo. È con lo stesso schema, ok? Va bene? Ecco, tutte e due avete questo, no? Di essere sempre disponibile, di aiutare le persone, e in particolare ci ho visto prenderti una marea di impegni alla volta che insomma finisci con l'essere più impegnata di un businessman, cioè proprio, ma un sacco di cose tu ti pigli, e anche te. Adesso faccio una piccola... Dunque, le cose si raddrizzano subito. Se uno ti fa determinati segnali, da subito bisogna fermarli. Sì. E non ci vuole niente a fermarli, basta che uno non abbia questa struttura. Perché li vede e reagisce, non ci pensa manco, reagisce liberamente. Figurati se si costringe, no? Dice, ma io non ce lo voglio. Finisce lì. Chi ha questa struttura è annebbiato. Non vede i segnali prevaricatori quando ci sono. E addirittura... confonde tutto, non vede i segnali prevaricatori quando ci sono e non vede quando invece sono richiesti, non distingue, non vede quando invece questi segnali non sono prevaricatori, sono richieste normali. Quindi chi ha la struttura di potere è un brutto pasticcio, perché confonde le richieste con le oppressioni, ma anche le oppressioni con le richieste, eh? Vale due cose, eh? È più complicata, sì, la cosa, attenzione, sì. Non... quindi, quando c'è un'oppressione, viene vista come una legittima richiesta. Ma una richiesta è sempre sul fatto che la persona, che io ho bisogno di avere l'immagine della persona generosa, esatto, quindi, che si dà da fare, esatto, per aiutare gli altri. Quindi, confonde. E quindi la scambio per questo fa sì che, e questo è lo struttura di potere, confonde. Che cosa? Richieste e costrizioni. E oppressioni, lezioni, racket e tutto, no? E li mette nella stessa scatola. Conseguentemente è sempre peggio, perché la sua esperienza di vita è che poi alla fine ne riceve di costrizioni, mentre un altro non riceverebbe. Il mondo è fatto pieno di richieste e di costrizioni, che sono spesso confuse, una arriva una, poi ne arriva un'altra. Poi arriva... Chi non distingue nettamente tra queste due cose... E poi finisce per alimentare questa struttura, no? E quindi la reattività. Ecco, chiaro? Beh. Ti faccio un esempio delle più comuni costrizioni. Sono le costrizioni mascherate. Costrizioni mascherate sono la richiesta con fretta. Ma io devo sapere se lo fai o non lo fai. E allora ci penso una, no, ma devi dirmi così, sai, per me è importante. Allora, questo pressing mette l'altra persona a dire, vabbè, di fare una promessa, no? Che non avrebbe mai fatto se non ci fosse stata pressione. La persona che ha fatto una promessa poi non si ricorda come mai ha fatto la promessa, che l'altro gliela è storta, e si ricorda solo la premessa. L'altro anche si ricorda la promessa, dopodiché cosa succede? Che ti sei incatenato da solo. Che lucido dice, certo che te l'ho promesso, ma te mi hai puntato la pistola alla gola. Torniamo da capo, rivediamo le cose da zero. Ecco. Quindi le promesse vanno mantenute, ma non le promesse storte. Oggi è una grande lezione. Ieri grande quella lì con la Jessica, oggi grande. Le promesse storte non vanno mantenute. E storte non vanno mantenute. Non... sono nulle. se uno ti ordina, cioè sai come, ti rapisce e ti porta in un posto, ti obbliga a sposarti con qualcuno e dici sì, quella promessa è nulla. Allora, quella è un'evidenza, però tutte le... Ecco, nell'ambito psicologico, se uno è lucido e non ha questa struttura, li distingue benissimo. Appena c'è questa struttura, si confonde e si incasina. È dal mattino alla sera. Poi, in più, si incasina nel modo in cui lui fa le richieste. Perché non sa bene se fa una richiesta. Insomma, è tutto un pasticcio. Quello di... Poi, alla fine, diventa un pasticcio il dare e ricevere. Non si capisce più niente, si capisce. Poi adesso ti sembra di dare la vita a un altro, in realtà l'altro dice, ma che cazzo, non è vero. Capisci? Non è reale tutto questo. È vero che tu ci hai messo un impegno enorme, ma l'altro non è che ha ricevuto più di tanto. Te sì, ti sei data da fare come una bestia, ma un altro modo, un altro equivalente aggressivo dei più carini è fare le cose per gli altri con riferimento interno. In modo che mi do da fare tantissimo per te, ma lo faccio in base agli schemi miei. A te questo non ti giova minimamente, non soddisfa i tuoi bisogni. Però ti metto nella condizione di essere migrata per cose che te ne hai mai proprio chiesto. Questa è un'altra cosa. Se c'è la struttura di potere, va a pallino, va il dare e ricevere, si fonda su basi poco solide, è sgretolato. Non sta in piedi, sì, dare e ricevere. Sì, sì, sì. Perché quello che credi di dare in realtà non lo dai, stai faticando te per i fatti tuoi. Ecco, quindi, e siccome il dare e ricevere è una fonte fondamentale dei principi dell'amore tra gli adulti, tra bambini e adulto no, ma nell'adulto l'amore scorre se c'è parità tra il dare e ricevere, se c'è equilibrio. Ecco che chi ha struttura di potere ha per forza problemi, anche per questa ragione, nel settore dell'amore. Che non funziona. Okay. Quindi, allora, diventare consapevoli, per esempio, che ho un partner e che a un certo punto, per esempio, non so, magari mettiamo un partner che è un po' schizzoide, vuole stare per fatti suoi. Allora tu, per fargli festa, per fargli un piacere, inviti a cena gli amici quando lui è in periodo di crisi e gli riempi la casa di gente. E tu lo fai per lui, ma non è mica vero, è un equivalente aggressivo. Cioè tu stai facendo qualcosa in modo da poterti dire ma io ho fatto questo e quest'altro e l'altro non sa cosa dire, no? Perché non gli stai dando quello per cui a lui ha bisogno, gli stai dando tutt'altro. Allora dentro di te una parte si arrabbia perché lui non reagisce positivamente e dice guarda che stronzo che è, ma in realtà quello è partito come equivalente aggressivo. Quando i riferimenti interno, adesso abbiamo visto tante volte, sono forme di equivalenti aggressivi, nascosti, non particolarmente sottili. Okay. Ma allora da questa struttura di potere come se ne esce? Allora, il primo passaggio per uscirne è la consapevolezza, comprendere con maggior chiarezza possibile questa struttura. E quello che ci siamo detti fino adesso, quello che c'è sulla pagina del sito, sull'ombra, sono aspetti importanti. Dobbiamo poi sapere che questo magnete agisce in automatico. Se non facciamo nulla, anche se conosciamo la storia, continuerà a funzionare in quel modo lì. Così come se hai giocato a tennis per 20 anni tenendo la racchetta in un certo modo e impari poi che quello era un modo non dei migliori e lo vuoi cambiare, non è che per il fatto che lo vuoi cambiare hai capito, allora acquisti subito il nuovo modo di tenere la racchetta, di fare servizio. Quindi ci vuole un periodo in cui ci impegni con volontà consapevole e porti questo apprendimento a livello conscio. Col tempo questo apprendimento conscio diventerà un apprendimento inconscio, cioè un automatico, ma per un periodo è come quando hai appreso la macchina a guidare la macchina e sapevi guidare sulla bicicletta, c'è un periodo in cui ci devi pensare. Ecco. Allora cosa succede? Che una volta compreso bene il meccanismo, ti renderai conto la tendenza a rientrare nell'automatismo. In quel momento lì, proprio se ne sei consapevole, puoi attivare invece la nuova marcia, quella appunto di non utilizzare più la struttura di potere, ma utilizzare una struttura paritaria, una struttura di trasparenza. Via via che riesce a usare questa struttura, questa nuova rete neurologica comincia a neurare, comincia a crescere, mentre quella del processo automatico comincia a ridursi. Quindi ci sarà un periodo in cui funzionano tutte e due e poi sempre di più quella nuova. Naturalmente è chiaro che tutte le tecniche che conosciamo possono accelerare questo processo, per esempio il generatore di nuovi comportamenti, gli ancoraggi, la ricalco del futuro, cioè tutte quelle cose che conosciamo, le PNL le puoi usare proprio per ad accelerare questo passaggio dal sistema automatico fondato sul potere al nuovo sistema fondato sul non potere, dominio.